Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben trovati a Salva Danaio. Elettrodomestici in discarica o smaltimento a proprie spese, solo un ricordo. Il 18 giugno dello scorso anno, lo ricorderete perché abbiamo organizzato anche alcune trasmissioni su questo argomento, sono entrate in vigore le nuove norme che obbligano i venditori, i rivenditori, a ritirare gratis elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche in caso di nuovo acquisto. L'operazione smaltimento gratis riguarda tutti i prodotti e le apparecchiature elettroniche, quindi si ha diritto al ritiro di frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, aspirapolvere e ferri da stiro, ma anche TV, videocamere, videoregistratori, schermi e computer e anche telefoni cellulari. Riportandoli al punto vendita si ha la garanzia di uno smaltimento a norma e della possibilità di riciclo, oltre che riportandoli al punto vendita anche permettendo appunto il ritiro contestuale appunto alla consegna dell'elettrodomestico a casa nuova. Come sta andando tutto questo? Funziona tutto regolarmente? Vita facile per consumatori e commercianti? E cosa facciamo se il commerciante pretende una somma per il ritiro a domicilio o fa finta di non conoscere le norme, o se non le conosce davvero perché magari il comune dove opera non gli permette appunto lo smaltimento agevole dell'elettrodomestico? Allora, noi stamattina parliamo di tutto questo perché è un tema molto popolare che interessa molti ascoltatori. Io ringrazio di essere qui nei nostri studi Radio 24 Davide Rossi, direttore generale dell'AIRES, l'Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. E ridò invece il benvenuto, anzi il bentornato, il bentrovato all'ingegner Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, che è il consorzio italiano recupero e riciclaggio elettrodomestici. Ingegner Arienti, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie anche a lei. Allora, naturalmente microfoni aperti anche agli ascoltatori che possono chiamarci per dirci e raccontarci la loro esperienza. All'800 24 00 24, vi siete avventurati nel ritiro uno contro uno, il commerciante è venuto a ritirarvi la lavatrice vecchia in cambio naturalmente dell'acquisto di quella nuova, e se vi siete interfacciati magari con un commerciante di piccolo taglio, di piccole dimensioni, insomma avete avuto modo di constatare se lui ha difficoltà nell'attivare tutta questa procedura, oppure insomma meglio fare un acquisto di un altro elettrodomestico con un grande centro commerciale. Raccontateci un po' quello che vi è successo. Oltre al numero verde lo potete fare anche al 349-238-6666 oppure scrivendoci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Come sempre abbiamo anche la buona pratica di dare un'occhiata alla borsa, al mercato finanziario, a quello che accade questa mattina. Abbiamo già avuto delle anticipazioni nel giornale radio. Siamo tutti così, eravamo abbastanza questa mattina in attesa della reazione del mercato europeo alle indicazioni emerse ieri sera dalla riunione della Banca Centrale Americana, e soprattutto il mercato era in attesa delle dichiarazioni del numero uno della Banca Centrale Americana, che ieri sera per la prima volta nella storia ha organizzato una conferenza stampa che ha fatto seguito ai lavori del Federal Open Market Committee, che è il braccio operativo della Federal Reserve. Ieri sera la Banca Centrale Americana ha lasciato i tassi di interesse invariati e Ben Bernanke ha detto che la politica monetaria della Fed rimane ancora appropriata, i tassi di interesse rimarranno a questo livello ancora a lungo perché il contesto macroeconomico è ancora difficile, c'è ancora un tasso di disoccupazione molto troppo elevato, anche se le attese di inflazione sono bene ancorate, la fiammata delle materie prime la Federal Reserve la giudica transitoria e quindi non ci saranno pressioni inflazionistiche generalizzate e durature, pertanto i tassi possono rimanere a questo livello ancora a lungo. Abbiamo un rialzo dello 0,59% sulla piazza francese. Francoforte guadagna lo 0,38, Londra non si muove da ieri, chissà se la City non sia così un po' tranquilla anche in attesa delle nozze tra William e Kate previste per domani, questo grande evento anche mediatico a cui probabilmente forse chissà guarda anche la borsa. Milano più 0,67% sul FTSE MIB, i maggiori rialzi quelli di A2A più 2, TOTS più 1,72%, Fiat più 1,63%, Telecom più 1,40%, Enel più 1,30%, in ribasso stamattina il risparmio gestito. Mediolanum perde un punto, Azimut meno 0,6, Parmalat meno 0,47%. Fiammata dell'euro sul dollaro a 1,48,35 adesso, stamattina si è toccata una punta a 1,48,82, anzi abbiamo avuto anche un nuovo record, tanto per cambiare, dell'oro a 1530,80 dollari l'uncia. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di questa mattina, parliamo dello smaltimento di elettrodomestici. uno contro uno. Non si tratta di una sfida, ma del decreto che facilita lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici. Da giugno 2010, infatti, i negozianti sono obbligati a ritirare gratuitamente il vecchio elettrodomestico nel momento in cui il cliente decide di fare un acquisto equivalente. Il tutto, appunto, senza costi aggiuntivi per il cliente. Il problema è che quasi nessuno ne ha conoscenza e molto spesso chi va ad acquistare un nuovo ferro da stiro o un televisore non restituisce mai indietro il vecchio e si accolla quindi l'onere di smaltirlo, il più delle volte in modo sbagliato. L'uno contro uno non è però l'unica soluzione per liberarsi dei vecchi elettrodomestici, perché non necessariamente si decide di sostituirli con apparecchi nuovi. In questo caso si deve portare il proprio elettrodomestico in un centro di raccolta comunale che, in aree attrezzate specificatamente, raccoglie i rifiuti per tipologie omogenee, in modo da consentire il recupero o il corretto smaltimento. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande, per i vostri interventi in diretta. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Vedo già qualche ascoltatore che ci sta scrivendo. Balza subito il mio sguardo sul messaggio di Roberto che dice: a me è capitato che non mi ritirassero il frigorifero, in questo caso posso chiamare i carabinieri e fare denuncia, speriamo di poter agire in maniera più serena e tranquilla per tutti. Davide Rossi, direttore generale dell'AIRES, l'associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati. Naturalmente i centri commerciali, i rivenditori non hanno avuto vita facile nell'organizzare tutte le procedure per poter appunto agevolare lo smaltimento anche per i consumatori. Quali sono state in questo anno le vostre difficoltà? Le difficoltà sono state moltissime. Fin dal primo momento di entrata in vigore della norma noi abbiamo cercato di dare ovviamente tutte le informazioni necessarie a tutti i nostri affiliati e subito sono arrivate dal territorio, così come stanno arrivando queste telefonate, tantissime segnalazioni analoghe. Possiamo noi chiamare i carabinieri perché un comune non riceve quando noi vogliamo conferire, quindi qua se chiamassimo tutti quanti i carabinieri, perché non è una presa di posizione del commerciante, lo dobbiamo anche dire. Certo, magari qualche volta anche per lui è un po' complicato, no, organizzarsi per andare a ritirare frigoriferi e lavatrici ovunque, ma qualche volta il suo problema è che poi magari deve mantenere il negozio perché la discarica del suo comune non gli permette lo smaltimento. E questa è una delle difficoltà. Naturalmente noi vogliamo ottemperare questa norma, lo abbiamo fatto delle circolari molto chiare nei confronti di tutte le imprese aderenti e abbiamo fatto anche un video informativo che ha una funzione sia di comunicazione nei confronti dei consumatori per spiegare meglio questo diritto che essi hanno, ma anche ha una funzione, come dire, di auto convincimento nei confronti di quegli operatori nel settore del commercio che fino ad oggi hanno cercato di non ottemperare una norma. Quindi noi volevamo partire da questa posizione molto chiara. Noi contestiamo alcuni aspetti della norma, ma vogliamo farlo dalla posizione forte di chi sta adempiendo e non nella posizione preconcetta di chi inadempiente contesta qualcosa. Allora, a parte i commercianti e i rivenditori del settore che qualche volta sostengono di non conoscere la norma e quindi non aiutano magari il consumatore nel corretto smaltimento di questi elettrodomestici, di tutti questi, di queste strumentazioni, anche tra i consumatori non è che le cose vadano meglio, perché c'è una scarsa conoscenza delle norme per il corretto smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Ricordiamo che hanno anche una denominazione precisa, ingegnere Arienti, sono i RAEE. E tra l'altro quello che io ho appena detto emerge proprio da una ricerca che avete realizzato, che avete fatto realizzare da Ipsos su un campione di circa 1200 persone. Cosa è emerso e cosa è successo da un anno a questa parte, ingegnere? Ma devo dire, la ricerca che lei cita, che abbiamo fatto realizzare da Ipsos, abbiamo voluto farla proprio perché incuriosisce il dato globale sui RAE in Italia. Circa 3/4 dei RAE che vengono girati ogni anno scompaiono, nel senso che mancano l'appello. Il sistema sta crescendo, nel 2010 abbiamo raccolto complessivamente 250.000 tonnellate, ma ne mancano altre 750.000. Dove vanno a finire? Vanno a finire lungo le strade, nei campi, abbandonate, purtroppo ci sono fenomeni di export illegale, oppure vengono sottoposte a un trattamento non corretto dal punto di vista ambientale. Quindi abbiamo voluto cercare di capire, andando a interpellare direttamente i consumatori, quali sono le ragioni di questo grosso buco nero che si viene a creare sul tema dei RAE. Ecco, la ragione principale che emerge dalla ricerca di Ipsos è una mancanza di informazione. Purtroppo il cittadino italiano, il cittadino medio, non sa che i RAE sono allo stesso tempo un rischio e un'opportunità. Un rischio perché molte tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche hanno un potenziale inquinante piuttosto elevato, per esempio i frigoriferi, oppure le televisioni, oppure le lampade a risparmio energetico, e allo stesso tempo un'opportunità, perché tutti i RAEE sono un serbatoio di materie prime seconde, quindi è allo stesso tempo un danno ambientale e dal punto di vista economico un danno economico appunto non trattarli correttamente. Ma c'è una carenza informativa, c'è una mancanza di conoscenza a cui bisogna cominciare a porre rimedio. Mi permetto anche di dire che il cittadino, quando anche fosse consapevole della necessità di trattare correttamente questa tipologia di rifiuti, deve essere anche messo in condizione di poter soddisfare facilmente della propria apparecchiatura, perché se è complicato, come dire, essere virtuosi, probabilmente la tentazione di non esserlo diventa molto certo. Più forte. No, ma anche perché, voglio dire, se solo il cittadino capisse quanto è molto più semplice fare, avere una persona che in casa ti ritira la lavatrice che non funziona più, in cambio ovviamente di quella nuova, piuttosto che, non lo so, caricarla su un'auto e portarla lungo la sponda di un fiume, immagino che appunto tutti saremmo molto più sensibilizzati sull'argomento. Dottor Rossi, direttore generale dell'AIRE, se lei sempre ha commento peraltro di questa ricerca commissionata da Ecodom ad Ipsos, ha sottolineato proprio il disagio che avete vissuto come distributori anche per gli aspetti controversi della legge. Le finalità sono sicuramente importanti, lodevoli. Che cosa non funziona? Ma ci sono vari aspetti che a noi mettono piuttosto in difficoltà. Alcuni comuni hanno delle piazzole comunali che però non possono ricevere dalla distribuzione, quindi se il cittadino va e porta, le piazzole ricevono; se consegniamo noi, le piazzole non ricevono. Questo per via di una complicata formazione normativa che ha comportato due momenti diversi di autorizzazione, di periodo di rilascio delle autorizzazioni delle piazzole comunali. Quindi c'è anche proprio un problema di burocrazia che sta alla base e che stiamo lavorando anche insieme con Ecodom, anche insieme col centro di coordinamento e con la stessa Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, per cercare di sciogliere, ma purtroppo ancora non siamo riusciti a trovare, come dire, il veicolo normativo per mettere a posto queste difficoltà. Ci sono anche dei funzionari del Ministero dell'Ambiente che con grande attenzione ci hanno seguito, ci hanno ascoltato. Abbiamo anche un pacchetto di soluzioni che sono allo studio, che però purtroppo non riescono a trovare un'approvazione. Questo obiettivamente è piuttosto grave, perché basterebbe prendere un foglio di carta, scriverci qualcosa e emanare un regolamento, insomma, che potrebbe, con piccoli passi, adesso è inutile che entriamo nel dettaglio in questa sede, però alcuni piccoli passi normativi potrebbero sicuramente agevolare. Voi queste sollecitazioni le avete portate a quale tavolo? A tutti i tavoli possibili e immaginabili, naturalmente al Ministero dell'Ambiente, ma lo abbiamo fatto anche in vari incontri istituzionali, ripeto, con Ecodom e con in generale il centro di coordinamento si sta lavorando con molta attenzione. Loro sono in prima linea, fanno parte anche del comitato presso il Ministero, insomma si sta lavorando su questo, ma purtroppo questo trova delle difficoltà esatto. Di natura non puramente non è neanche normativa. Certo, adesso ci sono le elezioni, ci sono tra l'altro, adesso potrebbe forse anche essere un po' il momento giusto per sensibilizzare qualche candidato in qualche comune importante. Detto questo, vabbè, sono divagazioni che magari interessano poco i nostri ascoltatori. Volevo togliere un'altra curiosità che ci scrive ingegnere Arienti. Ecodom, il consorzio italiano recupero e riciclaggio elettrodomestici, chi sono i soggetti all'interno di questo consorzio? I soggetti sono i produttori di elettrodomestici. Con Ecodom ci sono i principali produttori dei grandi bianchi, ma così come esiste Ecodom esistono operativi sul territorio italiano altri sistemi collettivi a cui appartengono altri produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche. Come giustamente citava lei all'inizio di trasmissione, parliamo di apparecchiature che vanno dal frigorifero all'iPod, quindi ci sono circa 5.000 produttori raggruppati nei sistemi collettivi, e i sistemi collettivi fanno capo a questo organismo che citava prima il dottor Rossi, che si chiama Centro di Coordinamento RAEE, che in qualche modo garantisce che ci sia una omogeneità di servizio sul territorio nazionale. Se mi consente, vorrei spezzare una lancia a favore delle cose che diceva adesso il dottor Rossi, perché effettivamente noi stiamo facendo un pochino i conti senza l'oste. La cosa di cui c'è bisogno, al di là della buona volontà delle parti, perché i distributori si sono mossi con estrema buona volontà e i sistemi collettivi e i produttori di apparecchiature con altrettanta buona volontà, insieme, cito una cosa sola, abbiamo fatto da tempo, cioè era la metà del 2010, un accordo per facilitare l'ingresso dei distributori alle isole ecologiche, aumentando i cosiddetti premi di efficienza, cioè gli importi che noi paghiamo alle isole ecologiche qualora appunto le porte fossero state aperte anche ai RAEE della distribuzione. Ma al di là della buona volontà delle parti, quello che serve è un provvedimento normativo o una serie di provvedimenti normativi che invochiamo a gran voce da tempo e che purtroppo non arrivano. Me lo dice dopo, ingegnere Orienti, perché devo già fare la nostra prima pausa. C'era anche tutta l'opportunità, non lo so, di tutta la normativa messa in piedi con il federalismo fiscale, magari bisognava infilarci qualche emendamento dentro, insomma, sensibilizzare qualche parlamentare a portare dentro anche le vostre istanze, non lo so, però insomma è un tema molto importante, molto delicato. Fra un po' daremo voce anche ai nostri ascoltatori, cercheremo di capire anche quali sono i comuni particolarmente virtuosi, quelli che invece sono molto resistenti a queste novità e per quale motivo. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Chiedo un minutino di pazienza a Rita da Milano e Emanuele da Bergamo, li sentiamo tra pochissimo. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, oggi parliamo di elettrodomestici, ma in che termini? Parliamo di quella novità che è stata introdotta un anno fa circa dal Ministero dell'Ambiente, il decreto che disciplina il nuovo sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAE, prevedendo l'obbligo del ritiro uno ad uno, compro un frigorifero nuovo, contestualmente la consegna in casa del nuovo elettrodomestico, il rivenditore deve impegnarsi al ritiro di quello vecchio. Sembra tutto così semplice, così banale, in realtà insomma la situazione ha reso un po' la vita complicata ai rivenditori, ai distributori, ai comuni anche, che naturalmente poi devono smaltire tutto questo materiale. Sono creati appunto dei comitati, ci sono dei tavoli di lavoro. Stamattina con noi c'è l'ingegnere, c'è Davide Rossi, direttore generale dell'AIRES, non so se è ingegnere peraltro. Sono avvocato, ma così giusto. Mentre l'ingegnere che abbiamo è l'ingegner Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, il consorzio italiano recupero e riciclaggio elettrodomestici, e stiamo cercando di capire intanto quali sono i comuni virtuosi, dove il sistema e la procedura funziona bene, e come, qual è anche il livello di sensibilità dei nostri ascoltatori su questo argomento. Molto alta naturalmente, perché è chiaro, se c'è qualcuno che ci rende le cose più semplici noi siamo tutti contenti, poi però non dappertutto è così. Intanto sentiamo Rita dalla provincia di Milano che salutiamo. Rita, buongiorno. Buongiorno. Io devo ristrutturare un appartamento in San Donato Milanese, uh-huh, e ho degli apparecchi vecchi da sostituire, però il restauro può avvenire nell'arco di alcuni mesi. Quindi lei ha bisogno intanto di liberare tutta la casa. Ecco. Però insomma adesso. Allora io mi devo rivolgere a un rivenditore dicendo: guarda, che io tra 2-3 mesi, 4, vengo da te a comprare gli appartamenti, gli apparecchi nuovi. Oppure vado in piattaforma, mi faccio portare apparecchi in piattaforma, però il costo è diverso, uguale. La discarica, certo. Rita, allora sentiamo un po', ecco, per casi un po' estremi, ma poi non tanto, immagino, come il suo, come ci si deve comportare. Ingegnere Arienti, che suggerimento possiamo dare a Rita? Allora, lei sicuramente gli elettrodomestici nuovi li comprerà tra qualche mese, può andare in un centro commerciale, poi lo chiedo anche a Rossi, mettersi d'accordo con il rivenditore di fiducia e magari fare un uno contro uno in un tempo successivo, in un momento successivo. Dal punto di vista della norma no, nel senso che la norma parla di ritiro contestuale, poi è chiaro che credo che un accordo commerciale e la buona volontà delle parti possa supplire anche questo. Diciamo che questa flessibilità teoricamente, no, stavo adesso immaginando di suggerire a Rita di mettere tutto, magari se trova un garage abbastanza capiente, e poi magari aspettare di fare in un secondo momento l'acquisto. Credo che la domanda vada correttamente posta all'avvocato Rossi. Avvocato Rossi, no, allora. No, non voglio metterla sul giuridico, assolutamente. No, allora, naturalmente i nostri rivenditori fanno di tutto per il cliente, quindi potrebbero anche portarli a casa loro, tenerseli per... No, adesso, al di là delle battute. È chiaro che questo è uno dei... caso esemplare. In cui si pensa che la distribuzione debba avere degli incarichi che obiettivamente non ha, che la legge ci abbia dato un ulteriore obbligo, perché vendere elettrodomestici sia una colpa dalla quale bisogna come dire affrancarsi con degli esercizi di disponibilità e di ricevibilità. D'altronde ovviamente... facevamo a microfoni spenti questo esempio, non è che il macellaio, avvocato Rossi, ritira l'umido infatti. No, ecco, al di là della battuta, che però tutto sommato ci sta, ogni tanto per capire meglio le norme bisogna fare un po' un passo indietro dal tecnicismo della norma e capire qual è la ratio che sta alla base. Si è pensato a questa formula di dare una croce sulle spalle della distribuzione, perché altrimenti i cittadini non sarebbero abbastanza virtuosi da con i propri mezzi recarsi nelle comunali, come sarebbe tutto sommato normale, come avviene in tanti altri paesi europei. In Germania, ad esempio, il ritiro è facoltativo, quindi qualche punto vendita ha scelto di ritirare anche come strumento di marketing, facendosi di promozione pagare. In alcuni casi sì, per il ritiro a casa ad esempio sì, anche perché mandare un mezzo con delle persone per fare una consegna ha un costo, mandare un mezzo con delle persone per fare una consegna, un ritiro e poi una riconsegna magari a parecchi chilometri di distanza, esatto, come abbiamo visto prima, perché in molti comuni non ci sono le piazzole, ha tutti altri costi. E poi c'è il costo di una piazzola che deve essere curate in un certo modo, deve essere esposto, non deve certo, essere aperto, non è che si buttano lì gli elettrodomestici, bisogna accatastarli, sistemarli. E poi ci sono responsabilità di natura penale per casi di violazioni di norme in materia ambientale. Insomma, ci sono una serie di complicazioni per la distribuzione che sono enormi e che si sono attribuite per cercare di uscire da questo ingranaggio in cui i comuni non erano abbastanza efficienti nell'informare i propri cittadini e nel ricevere, e i cittadini non erano, mi dispiace dirlo, abbastanza attenti alle tematiche ambientali per farlo per conto proprio se non arriva qualcuno ad aiutarli. Ora, grande simpatia per l'ascoltatrice, naturalmente, e io spero che possa trovare una soluzione a questo problema, però di fatto pensare che la distribuzione possa per obbligo occuparsi di questo è fuori di ogni logica. Può anche darsi che magari un rivenditore particolarmente disponibile a fronte di un impegno ad un acquisto, di un acconto dato, possa anche muoversi in quella direzione, ma questa non può essere naturalmente una regola e può essere una concessione che viene fatta nei confronti di un consumatore. Certo, ingegner Arienti, quali sono le aree geografiche del nostro paese dove c'è particolare resistenza a gestire correttamente la questione della quale parliamo questa mattina? Ma devo dire che purtroppo, contrariamente all'immagine generale che riscontriamo anche guardando i centri di raccolta comunali, dove il nord Italia ha una copertura quasi del 100%, il centro una copertura dell'ordine dell'85% e il sud purtroppo una copertura molto inferiore dell'ordine del 60%, contrariamente a questo, sul tema specifico dell'uno contro uno si è notato che in alcune regioni, mi riferisco in particolare alla Lombardia e al Veneto, in forza di un'interpretazione secondo me forzata e forse anche errata di un articolo del decreto ministeriale 65 del 2010, quello che ha reso possibile l'uno contro uno, alcune regioni, appunto quelle che citavo, hanno chiuso le porte dei centri di raccolta più grandi, più strutturati, più adeguati, hanno chiuso le porte all'ingresso della distribuzione proprio per un'interpretazione cavillosa, credo, della norma, e per cui nei territori abitualmente più virtuosi la distribuzione, che tra l'altro sono i territori dove la distribuzione è più organizzata e più anche dimensionalmente strutturata, ha avuto le maggiori difficoltà, e questo è veramente paradossale e si ricollega a quanto dicevo prima del fare i conti senza l'oste. Abbiamo veramente bisogno di alcune precisazioni, di alcune migliorie normative che purtroppo tardano ad arrivare. Volevo capire anche un'altra cosa, perché l'avvocato Davide Rossi dell'AIRES diceva poco fa, non si capisce per quale motivo sono i retailer di elettrodomestici appunto specializzati a doversi caricare di tutto il problema senza avere, almeno la norma poi non lo dice, è chiaro che il rivenditore può anche farlo, una adeguata remunerazione rispetto a tutta l'incombenza che devono sopportare. Però, se non capisco male, la norma prevede, non so se è la norma o che cosa lo preveda, c'è un eco contributo RAE, ingegnere Arienti, io l'ho visto anche dal vostro sito, questo che cosa va a remunerare l'attività del vostro consorzio e a quanto ammonta? Per esempio, dovendo smaltire il mio vecchio frigorifero e ne devo naturalmente acquistare uno nuovo, significa che acquistando quello nuovo pago una quota in più che poi va a voi? Sì, l'eco contributo RAE finanzia per legge soltanto l'attività dei sistemi collettivi come Ecodom, quindi copre dal punto di vista operativo la tratta che va dal centro di raccolta fino al trattamento, quindi tutta l'attività che appunto segue Ecodom. L'eco contributo RAE è un addendum al prezzo di vendita che è previsto dal decreto 151 del 2005, quello che ha istituito il sistema di gestione di RAE, e è una cifra che il consumatore, si spera, non in tutti i punti vendita, dovrebbe vedere in modo tale da cartellino del prezzo dell'elettrodomestico. Dovrebbe vedere, purtroppo non in tutti i negozi accade, in modo da sapere quanto dell'importo che sta versando comprando un elettrodomestico nuovo va a finanziare la gestione dei rifiuti che ci sono in giro. Per darle un'idea, sui frigoriferi oggi, per i frigoriferi di qualunque dimensione, l'eco contributo che noi applichiamo è di 10 euro. Per una dipende, immagino, anche dalle dimensioni dell'elettrodomestico. In realtà no, è una sorta di flat fee, perché poi noi con questo gestiamo qualunque tipologia di rifiuto, qualunque tipologia di frigorifero si presenti alle isole ecologiche. Possono arrivare frigoriferi grandi, piccoli, più o meno vecchi, di marche diverse. Con questi ecocontributi noi copriamo tutta la nostra attività. cerchiamo di essere estremamente trasparenti e cerchiamo anche di essere sempre più efficienti, per cui nel tempo gli ecocontributi, almeno quelli di Ecodom, si sono significativamente ridotti. E niente, magari fare un'aggiuntina all'ecocontributo e accontentare anche i retailer e ingegneri clienti potrebbe essere possibile? Un'altra di queste delle cose che bisognerebbe chiedere al convitato che manca, cioè al Ministero dell'Ambiente. Ah, ecco, il convitato di pietra di stamattina, perfetto. Ah, perché lo dovrebbe stabilire lui, Rossi? Esattamente, va stabilito per legge. Ah. Beh, sì, più che sì, naturalmente noi auspichiamo una correzione normativa, proprio di norma primaria, quindi temo che dal punto di vista proprio tecnico-giuridico non sia sufficiente un intervento del Ministero per stabilire che una quota debba venire infatti, a noi. Ah, no, anche dovrebbe poi essere necessario proprio un intervento anche legislativo. Esatto, certo, tutto il vostro l'avete fatto, se poi è a livello comunale che il procedimento si arena e la gestione delle discariche. Se poi posso segnalare anche un'altra vera incredibile distonia, è che quello stesso Stato che dà a noi quelle stesse leggi che danno a noi degli oneri molto molto impegnativi, noi dobbiamo mantenere in un certo modo quei prodotti, non possiamo abbandonarli neppure per un istante al momento in cui li abbiamo ritirati, le municipalizzate invece sono autorizzate a fare cose che se facessimo noi veramente verrebbero i carabinieri. Le municipalizzate si fanno pagare per i ritiri nella gran parte dei casi, in una discreta parte dei casi, e in alcuni casi chiedono al cittadino di lasciare al ciglio della strada alla sera. Sì, è vero, è vero, è vero, come con funziona. Dei rischi immensi, perché possono essere incendiati, possono esserne asportate parti, possono giocarci dei bambini e farsi del male. Se facessimo noi questo, se dicessimo al cittadino facci trovare là sotto casa la cosa che devi smaltire, noi verremo a ritirarla. Beh, se noi facessimo questo veramente subiremmo delle sanzioni pesantissime. Enormi. Tra l'altro, ritornando, adesso vorrei sentire anche altri ascoltatori, ritornando al caso dell'ascoltatrice che ci ha chiamato prima, ingegnere Rienti, ammettendo che l'ascoltatrice, appunto, visto che deve ristrutturare, deve liberare questa abitazione, non compra al momento tutto l'arredamento nuovo, quindi tutti gli elettrodomestici nuovi, così ad occhio e croce, ammettendo che debba disfarsi dei principali elettrodomestici della casa, un frigo, un congelatore, un televisore vecchio e una lavatrice, quanto gli viene a costare farlo senza appunto il ritiro contestuale del rivenditore di elettrodomestico, dovendolo buttare solamente in discarica o ad isola ecologica? A Milano nulla. Nulla. Che a Milano il ritiro da parte della municipalità di AMSA, insomma, è gratuito, e quindi se ha la fortuna di abitare in un comune come Milano, assolutamente pare nulla. San Donato stessi, sì. In altri comuni non è così, il ritiro a domicilio da parte della municipalizzata è a pagamento. In generale invece l'accesso del cittadino all'isola ecologica comunale è sempre gratuito, è sempre compreso nella tassa rifiuti che ciascuno di noi paga al proprio comune, però diciamo non è soggetto a un addendum particolare, quindi il fatto che io porti il mio televisore all'isola ecologica del mio comune è assolutamente a titolo gratuito. Vorrei sottolineare, ci scrive un ascoltatore, che il ritiro dell'usato da parte del rivenditore che vende il nuovo è a pagamento, ammonta 20-30 euro per un elettrodomestico acquistato ieri, ci racconta questo ascoltatore, che magari ci piacerebbe che ci raccontasse in che città è accaduto. Altri ascoltatori ci ancora confermano che pagano il ritiro dell'elettrodomestico anche a fronte di un contestuale acquisto di un nuovo. In 10 secondi, perché devo andare ai suggerimenti per chi è in viaggio, avvocato Rossi, un ascoltatore Loris ci scrive: l'uno contro uno si distingue per tipologia, posso smaltire un frigo acquistando un asciugacapelli? Ah beh, naturalmente no. La tipologia deve essere la medesima e oltretutto gli elettrodomestici devono essere integri, non possono essere alcune parti già mancanti demoliti. O già demoliti, o devono essere consegnati insomma le stesse condizioni dure. Perfetto. Emanuele, ancora un minutino di pazienza, al rientro dopo i suggerimenti perché in viaggio vengo subito da lei. Allora, stavamo un po' sorridendo con l'avvocato Davide Rossi dell'AIRES anche sulla rosa delle pretese impossibili dei consumatori che magari insomma vorrebbero chiaramente che tutto funzionasse al meglio, ma secondo le loro interpretazioni della legge, come ad esempio andare a acquistare il televisore leggero, se lo portano a casa, poi pretendono che il rivenditore vada a ritirare il vecchio. Naturalmente i requisiti di contestualità impongono che il ritiro, perché non vogliono pagare la consegna. Certo, non vogliono pagare la consegna. La consegna si paga, il ritiro non si paga, ma i due momenti devono avvenire in maniera contestuale. Non è che si può pensare a una simmetria di questo tipo. Questo sempre perché lo dice la legge? Questo lo dice chiaramente la legge, la contestualità. Anzi, quello apre poi, penso che poi forse ne parleremo, dell'online. Il caso di Emanuele da Bergamo. Emanuele, qua chiaramente il ritiro e la consegna non sono contestuali. Emanuele, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, io volevo giusto portare questo esempio. Circa 4 mesi fa ho acquistato un forno L'ho acquistato ovviamente in internet, in quanto i centri commerciali non sono. Va bene, ha trovato un modello che piaceva a lei e l'ha comprato lì. Esattamente. Poi l'azienda che mi ha venduto il forno ha poi chiamato un'altra azienda smaltitrice, la quale ovviamente mi fece pagare un importo di 45 euro per smaltire ovviamente il forno che nel frattempo era stato consegnato. E poi quelle 45 euro le hanno richieste a lei? Sì, certo, era già in fattura all'inizio era già in fattura all'inizio dell'acquisto. E allora sentiamo un po', Avvocato Rossi. Sì, non ho capito esattamente. Lui ha comprato dal sito ho comprato online questo forno. Di sotto gli acquisti li faccio sempre online. E l'azienda che mi ha venduto il forno mi aveva già messo in fattura quello che era l'importo che io avrei dovuto pagare per lo il ritiro del vecchio. Il ritiro del Avvocato Rossi, non le torna. Posso dire che sicuramente non era il sito di una delle imprese nostre associate, così difendo già subito la categoria. E quindi vabbè, poi magari Emanuele, visto che lei comunque con l'online ha una grande praticità, ci scriva così magari giro all'Avvocato Rossi. Ma il suo caso è interessante perché purtroppo su internet vediamo tutto il contrario di tutto ed è uno strumento a volte molto, molto pericoloso perché il consumatore si avvicina a internet pensando che sia come dire di risparmiare il regno delle cose ben fatte, invece ripeto sono sicuramente operatori molto seri, però ci sono anche situazioni grigie. Quello che facciamo noi, quello che fanno le imprese che seriamente stanno sul mercato su internet è garantire il ritiro anche se è molto dispendioso nel momento in cui si compra online a titolo gratuito come prevede la legge. Ovviamente noi lo facciamo, non so se tutti gli altri sono in questa dinamica. Allora, ingegnere Rienti, per chi chiede il contributo per il ritiro dell'elettrodomestico vecchio, che cosa può fare il consumatore nel momento in cui magari, immaginando che l'operazione si possa fare in maniera gratuita, quando c'è l'operazione proprio di scambio di elettrodomestico, si sente chiedere questo contributo, a parte che probabilmente lo dovrebbe sapere sin dall'inizio, ma ammettendo che questo sia una sorpresa, che succede? Ma se il consumatore è informato, la cosa che deve fare, o che io farei se fossi in un negozio e mi trovassi in questa situazione, è dire in modo molto chiaro al distributore che esiste un obbligo di legge che prevede il ritiro gratuito nel caso di acquisto di un'apparecchiatura equivalente e che quindi vado da un'altra parte a comprare se questo diritto che io ho come consumatore non viene soddisfatto. Io penso che siamo ancora in una fase di rodaggio, per cui in molti casi il distributore, parlo soprattutto dei piccoli distributori, non sappia esattamente ancora che esiste questo obbligo o cerchi di aggirarlo un po'. Però insomma intanto nell'incertezza legislativa, che ancora non è molto ben dettagliata su certi punti, chiaramente poi c'è anche chi ne approfitta dell'ignoranza altrui, magari lo fa anche non in cattiva fede completamente, però insomma Virginia dalla provincia di Vicenza, suo figlio quanto ha pagato per il ritiro del frigo vecchio? 25 euro. Aveva comprato quello nuovo? Sì. E quando ha dovuto sborsare questi soldi? L'anno scorso. No. È ancora. No, quello che volevo sapere è se, non lo so, magari c'è il tizio che viene a fare la consegna dell'elettrodomestico per ritirare quello nuovo e in quel momento che chiede 25 euro. Oppure era tutto chiaro sin dall'inizio dell'operazione commerciale? No, era tutto chiaro. Non sono sicura, ma penso che ancora adesso, perché noi abbiamo dovuto comprare una lavatrice e quella vecchia la teniamo ancora lì perché è ancora funzionante, ma non la portiamo per 25 euro, non vale la pena portarla. Non vale la pena? Allora, no, aspetti un attimo però, perché io vorrei capire, questi 25 euro che suo figlio ha pagato per il frigo vecchio, l'ha pagato al rivenditore dove ha comprato quello nuovo? No, l'ha pagato ad Ecocentro. Che cos'è un rivenditore? La discarica? Centro, l'isola ecologica? Sì. Ah, vabbè, ma questa è una cosa diversa. Noi qua stiamo parlando dei rivenditori. Beh, certo, a Rienti, l'isola ecologica, in certi casi, come lei ci spiegava prima, si fa pagare per il ritiro questi rifiuti. Invece di tenere una TARSU elevata, preferiscono avere una tariffa ad hoc per certi servizi, per cui io non pago a prescindere dal fatto che poi effettivamente conferisca un RAE, pago solo quando lo porto. Poi che la TARSU sia bassa nei nostri comuni possiamo discutere all'infinito, nel senso che in generale comunque la TARSU è alta e in più si paga una tariffa ad hoc come nel caso della signora, purtroppo i nostri comuni sono un po' così. E allora, comunque, insomma, c'è chi ci racconta che allora, ecco, no, facciamo chiarezza. Quando parliamo di quello che si paga per lo smaltimento del rifiuto elettronico ed elettrico vecchio, se si paga una certa cifra, può essere che si paghi all'isola ecologica, quindi all'amministrazione comunale, al bilancio comunale. Non è sempre detto che sia il commerciante, anche se qualche volta, infatti, l'avvocato Rossi si è asciugato un po' di sudore dalla fronte quando sentivamo l'ascoltatrice poco fa. Senta, però, se c'è il commerciante che lo chiede, avvocato Rossi, bisogna assolutamente rifiutarsi. Tra l'altro devo anche dire che noi siamo la tipologia di mercato in cui i consumatori più girano vari punti vendita prima di fare una scelta. Abbiamo stimato che prima di comprare un televisore mediamente il consumatore va in 3-4 posti, per il frigorifero, per il telefonino in 200, perché per si fare va il mutuo va in una banca sola, è così, ecco, invece è una cosa positiva, perché sì, noi abbiamo, assistiamo in un anno a 200, oltre 250 milioni di visite singole nei punti vendita solo degli associati dell'Aires, e purtroppo soltanto un quinto o un quarto di queste genera un acquisto, quindi vuol dire che la gente viene, guarda, confronta. Posso dire solo questo ai consumatori: da oggi in avanti dobbiamo anche chiedere come funziona lo smaltimento, e confrontate, e sicuramente chi ha gambe buone avrà le migliori condizioni. Allora, stavo intanto controllando altri messaggi, ma direi di sentire anche Iva dalla provincia di Torino rapidissimamente. Iva, buongiorno. Io abito a Michelino, alla periferia sud di Torino. Noi abbiamo isole ecologiche e poi abbiamo il numero verde, che quando abbiamo, non so, televisore, qualche elettrodomestico da smaltire, vengono a casa a prenderlo, eppure la gente l'abbandona per le strade. Mamma mia, sai che bello spettacolo nel suo paese vedere frigoriferi e vabbè, non, spero che non ci siano tanti. Quanti televisori hanno visto in giro? Ma chissà che fatica fa poi anche la gente, verde, non si paga niente. Lo so, è un po' l'ignoranza che regna. Insomma, ci sono anche dei comuni che devono fare il loro lavoro, un po' di campagne informative. Posso dire, ci sono due fenomeni di questo tipo. Uno, proprio la così l'ignavia e la, voglio dire, criminale attitudine di certi cittadini. L'altro è un altro aspetto ancora, a mio avviso, più grave. Sono questi soggetti semiprofessionali, quelli che fanno sgombero, cantini, solai. Ecco, sì, infatti. Si pensa di affidarsi a qualcuno che poi farà le cose per bene, invece queste persone vengono, ritirano le cose, estraggono magari qualche parte che in qualche maniera riescono a rivendere, in qualche, ripeto, parliamo proprio di cose di bassissimo livello, non certo di grandi strutture che fanno questo. Penso proprio a questi piccoli, piccoli soggetti, questi semi-artigiani, magari neanche iscritti a nessuna camera di commercio, proprio sono così, che lavorano in nero. Questi estraggono delle parti, e allora a quel punto con la parte estratta è più difficile andare a conferire il prodotto, e quindi gli viene più comodo abbandonarlo in giro. Ecco, questi soggetti andrebbero colpiti con molta durezza, perché sono quelli forse ancora più dei cittadini. Allora, speriamo che almeno dopo la trasmissione di questa mattina abbiamo incrementato la quota dei sensibili sull'argomento. Volevo leggere una mail piuttosto articolata che è arrivata da poco, di Giovanni Bergamaschi. Leggo anche il cognome, così almeno si identifica bene il nostro ascoltatore, che ci scrive: siamo dei distributori con grossi problemi con la gestione dei RAEE. Il nostro comune, e peccato che non ci abbia scritto quale sia, non raccoglie questi rifiuti che portiamo all'isola ecologica, perché la stessa deve essere ristrutturata ed adeguata, ma i tempi si allungano enormemente, lo immagino. Questo è un settore, tra l'altro, dove fiocca anche tutto un altro fenomeno, circostanze del quale stamattina è meglio non parlare. I comuni vicini men che meno, per ora li riceviamo ugualmente, ma non pubblicizziamo la cosa e li accumuliamo, ma saremo tenuti a smaltirli mensilmente. Come possiamo fare per risolvere la nostra situazione? Ingegnere Arienti, li mettiamo in contatto con voi? Ma in realtà sul portale del centro di coordinamento RAE, che è www.cdcrae.it, c'è la possibilità per i distributori di verificare quali sono le isole ecologiche, probabilmente non vicinissime, vista la situazione che descriveva questo ascoltatore, in cui si possono conferire i RAE. In parallelo, come dicevo, come accennavo prima, abbiamo cercato di incentivare tutte le isole ecologiche ad aprire le porte alla distribuzione, maggiorando i premi di efficienza. Quindi un'altra cosa che si può fare è andare a dire, invito l'ascoltatore a farlo, all'isola ecologica, al proprio comune, che esiste questa maggiorazione dei premi di efficienza, quindi degli importi che vengono dati per ogni tonnellata di RAE raccolta, e vale quindi la pena anche per il comune di aprire le porte alla distribuzione. Benissimo, ingegnere Arienti, grazie per essere stato con noi, per la sua chiarezza, così come quella di Davide Rossi, grazie. L'avvocato Rossi, il direttore generale dell'Aires. Se fra qualche mese ci rivediamo, rifacciamo un punto della situazione, vediamo se questa mattina abbiamo sensibilizzato un po' di più tutti quelli che ci ascoltano: rivenditori, comuni, enti locali, amministrazioni, sindaci in procinto di essere più o meno eletti in tante zone d'Italia, soprattutto i consumatori. E poi tra l'altro c'era un altro aspetto che Giovanni segnalava, che era quello della gestione degli accumulatori al piombo, le batterie, altro problema sicuramente molto importante. Salvadanaio termina qua, ci sentiamo domani, buona giornata.